110. Crostini di fegatini di pollo. Sapete già che ai fegatini va levata la vescichetta del fiele senza romperla, operazione questa che eseguirete meglio operando dentro a una catinella d'acqua. Mettete i fegatini al fuoco insieme con un battutino composto di uno scalogno e, in mancanza di questo, di uno spicchio di cipollina bianca, un pezzetto di grasso di prosciutto, alcune foglie di prezzemolo, sedano e carota, un poco d'olio e di burro, sale e pepe. Ma ogni cosa in poca quantità, per non rendere il composto piccante o nauseante. A metà cottura levate i fegatini asciutti e con due o tre pezzi di funghi secchi rammolliti tirateli fini con la lunetta. Rimetteteli al fuoco nell'intinto rimasto della mezza cottura e con un poco di brodo finite di cuocerli. Ma prima di servirvene legateli con un pizzico di pan grattato fine e uniteci un po' d'agro di limone. Vi avverto che questi crostini devono essere teneri e però fate il composto alquanto liquido oppure intingete prima appena appena le fettine di pane nel brodo.